I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. La sterlina precipitata ai minimi sul dollaro da oltre 31 anni a questa parte, il petrolio di nuovo oltre quota 50 dollari, la BCE che deve promettere andremo avanti con gli stimoli monetari anche dopo marzo 2017. Questi temi che hanno determinato settimana scorsa i maggiori movimenti di borsa. Quella inglese viaggia ai massimi da oltre un anno e mezzo, condizione consentita dalla forte svalutazione della sterlina che sta registrando appunto questo movimento verso tutte le altre divise. Anche se venerdì c'è stato un episodio che in gergo finanziario si chiama flash crash, una caduta della sterlina che ha provocato un autentico allarme. Anche sull'euro la divisa britannica è ai minimi da 8 anni a questa parte. Molto nervose le altre borse europee. Sono appese al destino di Deutsche Bank, ma più in generale c'è attesa anche di schiarite su soluzioni relative ad alcune banche italiane. Per Monte dei Paschi la situazione si fa sempre più complessa in attesa del piano industriale e della ricapitalizzazione. La banca sarebbe pronta a cedere il maxi pacchetto di sofferenze, ma con il titolo che continua a scendere non è chiaro quanti soci potranno partecipare all'aumento di capitale. Negli Stati Uniti, dove la campagna elettorale per le presidenziali si fa sempre più incandescente, la settimana scorsa si è conclusa con l'atteso dato sulla disoccupazione di settembre. Un dato che è apparso deludente visto che è risalita al 5% e sono stati appena 156.000 i nuovi posti di lavoro appunto creati lo scorso mese. Il Tesoro italiano ha collocato per la prima volta un BTP a 50 anni per un importo di 5 miliardi di euro. Il mercato ne ha chiesti ben 18. Sono stati in gran parte investitori esteri a sottoscrivere questa emissione, tanto che il Ministero dell'Economia ha potuto piazzarlo appunto ad un tasso estremamente vantaggioso, il 2,85%, e ciò a dispetto anche del nervosismo che c'è di nuovo sullo spread fra BTP e Bund, che ha ritoccato e superato in settimana i 140 punti base. Per i temi della settimana, oggi chiusi per festività la borsa del Giappone Wall Street. In Lussemburgo c'è la riunione dei ministri delle finanze della zona euro. Domani dalla Germania arriva l'indice di fiducia ZEV, molti dati in programma anche dagli Stati Uniti, fra cui i verbali dell'ultima riunione della banca centrale. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Un balzo inatteso. Ad agosto l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dell'1,7% rispetto al precedente mese di luglio, ma ciò che più conta è che in un anno, rispetto all'agosto appunto del 2015, il balzo è stato del 4,1%, un salto del tutto inaspettato, visto che i principali centri studi prevedevano addirittura chi più chi meno cali o modestissimi incrementi. Va detto subito che il dato di agosto non è particolarmente significativo di una vera e propria tendenza, perché sconta fattori stagionali evidenti e i volumi su cui si calcolano gli incrementi sono comunque bassi. Ma in ogni caso la sorpresa rimane. Tutto merito della vendita di auto e veicoli e della buona performance della domanda di beni strumentali e di macchinari in cui l'Italia eccelle nel mondo. Quali sono i settori che vanno meglio? Dai dati di confronto annuale si è registrato un significativo aumento nei beni strumentali, appunto più 12,5%, nei beni intermedi più 7,6%. Mentre diminuiscono i comparti dell'energia, meno 4,1%, e dei beni di consumo, meno 1,3%. E per quanto riguarda i settori, per gli autoveicoli c'è una crescita record a più 41,9%, ma anche per la fabbricazione dei mezzi di trasporto, che porta a casa un 19,2%. Le diminuzioni maggiori invece si registrano nell'attività estrattiva, con un calo del 17,7%, nella produzione di prodotti farmaceutici di base, preparati farmaceutici, nelle industrie tessili, abbigliamento e accessori, che sono calate del 5%. Non resta quindi che sperare che questa imprevista ondata positiva possa riverberarsi alla fine nella crescita del PIL, magari riservandoci qualche sorpresa positiva che sarebbe così utile anche nel negoziato sulla flessibilità dei conti che l'Italia sta conducendo a Bruxelles. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.